450. Sparagi. Per dare agli sparagi aspetto più bello, prima di cuocerli, raschiate con un coltello la parte bianca e pareggiate l'estremità del gambo, poi legateli con uno spago in mazzi non troppo grossi e perché restino verdi, salate l'acqua, immergendoli quando bolle forte e facendo vento onde il bollore riprenda subito. La cottura è giusta allorché gli sparagi cominciano a piegare il capo, ma accertatevi meglio con le dita se cedono a una giusta pressione, essendo bene che siano piuttosto poco che troppo cotti. Quando li levate, gettateli nell'acqua fresca, ma poi toglieteli subito per servirli caldi come i più li desiderano. Questo erbaggio prezioso non solo per le sue qualità diuretiche e digestive, ma anche per l'alto prezzo a cui si vende, lessato che sia, si può preparare in diverse maniere, ma la più semplice e la migliore è quella comune di condirli con olio finissimo e aceto o agro di limone. Nonostante, per variare, eccovi altri modi di prepararli dopo averli lessati a metà. Metteteli interi a soffriggere alquanto con la parte verde nel burro e dopo averli conditi con sale, pepe e un pizzico assai scarso di parmigiano, levateli versandoci sopra il burro quando avrà preso il rosso, oppure dividete la parte verde dalla bianca e prendendo un piatto che regga al fuoco disponeteli in questa guisa. Spolverizzatene il fondo con parmigiano grattato e distendeteci sopra le punte degli sparagi le une accosto alle altre. Conditele con sale, pepe, parmigiano e pezzetti di burro. Fate un altro suolo di sparagi e conditeli al modo istesso, proseguendo finché ne avrete. Ma andate scarsi a condimento, onde non riescano nauseanti. Gli strati degli sparagi incrociateli come un fitto graticolato, metteteli sotto a un coperchio col fuoco sopra per scioglierne il condimento e serviteli caldi. Se avete sugo di carne, lessateli a metà e tirateli a cottura con quello, aggiungendo un poco di burro e una leggera fioritura di parmigiano. In un fritto misto potete anche servirvi delle punte verdi degli sparagi avvolgendole nella pastella del numero 156. Altri e diversi modi di prepararli vengono indicati nei libri di cucina, ma il più sovente riescono in trugli non graditi dai buongustai. Nonostante, vi indico la salsa del numero 124 che può piacere se è mandata calda in tavola in una salsiera a parte per condire con essa tanto gli sparagi quanto i carciofi tagliati in quarti e lessati. Il cattivo odore prodotto dagli sparagi si può convertire in grato olezzo di viola mammola, versando nel vaso da notte alcune gocce di trementina.